ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua. Tutti e due compari, sono due cretini. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mi spiegate come faccio io, che fra qualche giorno andate in vacanza e io devo continuare a studiare e dalle 6:30 alle 9 le uniche zanzare che vedrò sono quelle che già da qualche settimana mi stanno massacrando le gambe. David, Giuseppe, aiutatemi voi. Come faccio? Come faccio? Vi chiamo il pomeriggio, vi chiedo come state, mi dite due cose e io sto bene con me stesso e con il mondo soprattutto. Siamo al flop. No, questo non sarà possibile, amico mio, eh. Questo non sarà possibile. Forse puoi chiamare Parenzo, se vuoi ti do il numero di telefono. No, ti do il numero di telefono di Parenzo, così tu ogni pomeriggio lo chiami, sì, ogni pomeriggio in vacanza d'agosto, tanto non è in vacanza, in realtà lavora ad agosto. Per cui lo puoi tranquillamente chiamare, ti fai fare qualche battuta, qualche imitazione, grillo, eccetera, eccetera. Ti fai mandare a fare in culo. Esatto, bravo, così sei contento. Tu non ti ricordi la nonnina gioiella? La nonnina gioiella, credo con un vago accento toscano. Sono andato a recuperare un messaggio che mi ero perso, in cui te ne diceva quattro dopo il referendum inglese. Senti, la nonnina gioiella, si chiama così, gioiella, senti. Cruciani, mai stappato una bottiglia alla barba del PD che si son cati addosso? Lo so, io so perfettamente, amici miei, che tutti voi vi aspettate che io dica qualcosa su questo caso incredibile di una bambina di 2 anni, di 3 anni, anzi di neppure 3 anni, che è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale Gasini di Genova per una dieta rigidamente vegana, non lo dico io, lo dicono i medici, decisa dalla madre della bambina. Una roba criminale, ragazzi. Aveva un peso decisamente inferiore rispetto alla media della sua età, una scarsa reattività, un rallentamento dei movimenti. Ora dico una cosa: ognuno nella vita fa il cazzo che vuole. Se un genitore, se dei genitori vogliono non dare la carne, non dare il pesce a un bambino, facciano quello che vogliono. Però, se poi non seguono passo dopo passo, giorno per giorno il bambino, non stanno lì appresso a controllare i valori del sangue, eccetera, eccetera, toglietegli il bambino. Perché sono dei criminali. Volete fare la dieta vegana al vostro bambino, al vostro neonato? Va benissimo, io sono per la libertà, come al solito. Beh, quale grande libertà? Ma che dici? No, ma io sono per la come grande libertà. Libertà nulla, come quelli che non vaccinano i bambini. Ma stai scherzando? No, è diversa, è la cosa, è diversa, perché qui non fai un danno agli altri. Qui non fai un danno agli altri. Con i vaccini potresti fare un danno agli altri. In questo caso non fai un danno agli altri, potresti fare un danno al bambino. Vuoi fare la dieta vegana al bambino? Bene, segui giorno dopo giorno. Se ti manca questo cazzo di vitamina B12, che è fondamentale, certo, trovi i rimedi opportuni. Probabilmente ci sono, probabilmente no. Io da parte mia do carne, pesce, ho dato, eccetera, perché ho già dato da questo punto di vista. Però se non lo fai, ti devono portare via il bambino, chiaro? Senti, ci è capitato per mano una roba che ha detto Lapo Elkan. Il ottimo signor Lapo Elkan. Sì. E io non riesco a capire il motivo per cui quando uno deve spiegare una cosa abbastanza semplice. Comunque devo fare i complimenti oggi a chi ha installato tutta l'apparecchiatura, perché bisogna dire, tutta questa apparecchiatura che funziona perfettamente, ti sento perfettamente dalla sede della televisione. Possiamo salutare compagno che è qui vicino a me. Lei si chiama, direttore? Beh, facciamo un applauso. Petrucci? Sì, si Petrucci. Chiama? Alessio Petrucci. Bene, un applauso facciamo al direttore Petrucci. Un applauso, giustamente. Bravo, giustamente. Petrucci. Compagno Petrucci, peraltro è un compagno dei comunisti italiani. Ma non è vero, perché gli devi dire il comunista? Non è fatto comunista. Sarà sicuramente come tutta la manovalanza, diciamo l'impiego. Manovalanza. Non la manovalanza in senso buono. Manco nell'Ottocento lo chiamavano così, la manovalanza. Come tutti gli impiegati italiani, tecnici italiani. Come tutti i sudditi, chiamiamoli sudditi. Saranno passati dalla sinistra alla Lega oppure a Grillo, sicuramente. No, lui è del ma non è comunista. Voterà Grillo, sicuro, 100%. Il partito comunista combattente. Tutti i tecnici di tutte le radio italiane che conosco io votano tutti Grillo. Ti giuro, votano tutti Grillo. Mamma non ce n'è uno che voti Renzi, uno che voti tutti Grillo oppure Lega. Cosa voti te? Che vota questo? Dai, su. Ultimamente forse ha più ragione Giuseppe. Lo vedi, ma te l'ho detto senza saperlo. Dai. Grillo ha votato Grillo. Te lo dico io, ha votato Grillo. Ma è chiaro. Ma guarda, guarda come è impiantato male questa roba. Non funziona niente qua. Niente funziona, niente. Vabbè, Lapo Elkan, ridiamo un po', ragazzi. Uno deve spiegare una cosa semplice nella vita. Caro amico Lapo, spiega le cose in modo semplice. Perché non è che hai sempre un uditorio, si dice, una platea di persone che sanno tutto. Sentiamo. Siamo qui oggi molto contenti di potervi presentare un progetto nuovo sviluppato tra Garage Italia Customs e Smart, dove abbiamo voluto creare una capsule collection, prendendo tutto il meglio del mondo della moda e del mondo dello stile, in questo caso qui rappresentato stasera con la Smart a pois su sfondo rosa la Smart invece argento con riga titanio. Ecco, questo è importante. Solo il punto di partenza titanio, di un progetto sviluppato tra Smart e Garage Italia Customs. Non c'è dubbio. Dove presenteremo più pattern. Più pattern, questo è buono. Più realizzazioni, più che potrete acquistare direttamente online, queste due credo a brevissimo. Ma non ci penso. E ci saranno nei prossimi mesi, sempre a cadenza, delle novità di pattern, delle novità collegate al mondo della moda, delle novità che non sto qui a raccontare perché sennò poi dopo non sono più sorprese. No, ed essendo tante novità, sono sicuro e convinto che questo vi darà soddisfazione molta e vi soddisfazione. Darà la possibilità soprattutto di selezionare sul panel di più vetture, di più sviluppi creativi, certi più legati allo stile e certi più legati alla moda. Ora io dico una macchina che è rosa a pois neri, e poi grigio con righe in titanio, amico mio, righe in titanio da criminali, da criminali. Allora, leggo, giudice libera uno stupratore egiziano, sarà vicino di casa della vittima, l'immigrato molesta una 25enne sotto casa, il giudice non lo arresta, Milano, a patto che non la veda più, peccato che i due abitino nello stesso palazzo, capito? Lei gli ha dato una gomitata, l'ha colpito, si è barricata in un appartamento, ha chiamato la polizia, arrestato, l'aveva molestata, palpeggiata sotto casa, eccetera, eccetera. Però, lo ha lasciato andare il giudice a patto che non veda più questa 25enne. Però i due abitano insieme, stesso palazzo, Città Studi, quartiere di Milano. Sentiamo quando chiamò la polizia. La ragazza. Polizia operatore 2. Ci ho avuto delle molestie sessuali vicino, stava fuori, era un egiziano, penso. E mi ha seguito mentre entravo in tutti i piani, mi ha bloccato mentre stavo andando verso la mia porta e ha iniziato a toccarmi, io ho scansato con una gomitata. Va bene, adesso arriviamo. Allora, adesso l'unica cosa è che non so adesso, cioè io avrei paura anche che voi magari lui veda voi e poi dopo i prossimi. No, ma noi veniamo lì e ce lo portiamo io proprio. Quindi stai proprio tranquillo. Ok. Ma sai a che piano abita? No. Di fianco a me. E lì a fianco è rimasto, Allora ragazzi, io non capisco, non riesco a capire come si possa ancora discutere, si tratta di Firenze, della creazione, apertura di un McDonald's, al centro di una città. Cioè, pare che il sindaco della città di Firenze, cioè Nardella, dopo aver trattato e aver dato il suo assenso, adesso non so se formale o non formale, pare che McDonald's voglia fare causa, ma non mi interessa la questione legale, se la vedono loro McDonald's e il comune di Firenze, non mi interessa. La cosa incredibile è che il comune prima dice di sì e poi ci ripensa a mettere un McDonald's al centro, a Piazza Duomo a Firenze. Non riesco a capire perché siamo ancora a questo livello. Cioè, questi qua, poi a me non mi interessa da McDonald's, non sono pagato dalle multinazionali, non sono pagato da McDonald's, no, me ne fotto totalmente. Certo, questo c'entra niente. No, no, lo metto in chiaro perché qualcuno dice lo ma per carità, perché... Allora, mangio spesso più McDonald's, meno Nardella. Questo è il punto. Più McDonald's, meno Nardella. Cioè, questi portano soldi, assumono persone, ma non aprono in piazza, locali. Ma ho capito, ma non si può mangiare l'hamburger in piazza lì, in piazza del Duomo, a Firenze. Ma perché, ma qual dai. È il problema? Non ho capito. Ma no, bisogna valorizzare le cose. Il McDonald's va bene lì alla stazione, ma non nella piazza lì, uno va con l'hamburger, il fishburger lì che gli gronda dalla bocca. Beh, di fronte qual è che a quella ti fa schifo, non ho capito. Meravigliosa. No, lo mangio, cioè, anche. Cioè, tu il non vuoi McDonald's a piazza del Duomo, ma a Firenze? Ma non nella piazza del Duomo a Firenze, dovrebbe esserci i prodotti tipici locali della Firenze, capito? Il lampredotto, sì. Deve esserci il territorio, capito? Il prodotto local, non il grande hamburger tu, che puoi mangiare alla stazione. Tu sei fuori di testa. Cioè, McDonald's ha un locale al Louvre. Cioè, ha una sua postazione al Louvre. Ma dai, ma insomma, bisogna anche valorizzare la cucina del territorio. McDonald's va benissimo, ma io lo cazzo adoro. C'entra? Ma se alla uno stazione, ha un'idea. Alla stazione, meraviglioso. Ma davanti, ma tu mangi un fish burger guardando. Ma io non lo mangio Duomo? Perché non ci vado, perché non mi piace. Ma, un altro, ma chi se ne frega, perché uno può mangiare un McDonald's con davanti il Duomo? Meraviglioso, ma... il contrasto è meraviglioso. Ancora si discute in Italia del fatto che un McDonald's possa andare in un centro storico. E comunque, beh, prima è una scelta politica quella, giustamente. Ma prima non puoi dire di sì e poi, ecco, di no. Questo è un altro discorso, hai perfettamente ragione. Questo, infatti, hai ragione. Però è una scelta politica. Su questo fa bene Nardella a dire di no. Senti, Vendola dopo un maschio vuole avere anche una femmina. Vuole avere anche una femmina. Ora, io non so, voglio chiedere agli ascoltatori se trovano esagerato tutto questo. Io, come al solito, pur non condividendo in generale le idee di Vendola, sono dalla parte sua. Cioè, se uno vuole una femmina accanto a Tobia, il signor Tobia, che è nato qualche mese fa in California, benissimo. Trattasi della costruzione di un bambino, ma io sono a favore della costruzione dei bambini. Dunque, io sono coerente. No, non dico di no. Costruzione sì, dei sì, bambini. Sì, scelta dei bambini con gli occhi ma azzurri. Costruzione dei bambini. Sì, ma chi sì, sei, sì, Frankenstein? Sì, sì, sì, bravo, sì, sono pro antinori, pro costruzione. Uno c'è il catalogo, uno sceglie gli occhi azzurri, biondi, eccetera, eccetera, sceglie dal catalogo di farsi un bambino. Esiste questa cosa qua in vari paesi? Io sono d'accordissimo con questa cosa, è talmente limitata, talmente piccola come cosa, che se uno la vuole fare, spendere i soldi, va bene, l'economia, circola denaro, va bene tutto. E se Vendola vuole avere una bambina, va bene, però quello è la costruzione di un fratello di Tobia. Leggi cosa scrivono oggi i giornali. Qui sono tutti pazzi perché adesso è in Puglia. Qui sono tutti pazzi per Tobia Antonio. La zia Rosaria martedì gli ha grattugiato la prima fettina di mela e mentre papà Niki lo imboccava col cucchiaino, lo zio Vincenzo, il marito di Rosaria, l'oculista di Ravo di Puglia, fratello dell'ex governatore, scattava foto a ripetizione col suo smartphone. E adesso nel suo studio ecco che se le guarda e riguarda. Pesa già 8 kg. E infatti lo teniamo in braccio un po' per uno perché ci vuole forza. È un bambino alto e ha una fame da lupo, è un vero americano, chissà quanti hamburger mangerà da grande. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. La Zanzara. Mia madre oggi mi ha detto: Luca, smettila di ascoltare quel programma, è scurrile, stupido e crea solo polemica. E ho risposto: ma ha anche difetti. Allora, alla fine avevamo ragione noi, caro David, come spesso accade d'altra parte. Don Inzoli, te lo ricordi Don Inzoli? Detto anche Don Mercedes, tu hai la memoria labile da questo punto di vista. Detto Don Mercedes, Comunione Liberazione, per 30 anni è stato affiliato, diciamo così, a Comunione Liberazione, addirittura fondatore del Banco Alimentare. Ha risarcito prima le 5 vittime che palpeggiava, molestava, 5 ragazzini con 25.000 euro. È arrivata anche la condanna, 4 anni e 9 mesi per pedofilia in sostanza, no? Io voglio ricordare ai signori del Vaticano, anzi a chi ci ascolta soprattutto, che il Vaticano, nonostante le richieste dei genitori, nonostante le svariate testimonianze, eccetera, eccetera, non trasmise gli atti alla procura. E devo dire che in questo caso ha fatto un grandissimo lavoro un senatore, credo, di SEL, che si chiama Bordo Locale di Crema, se non sbaglio, il quale ha insistito moltissimo. Alla fine la procura si è messa in moto, indagini, eccetera, eccetera. 4 anni e 9 mesi. E noi anni fa, in realtà un anno e mezzo fa, credo, un anno fa, quando ancora queste cose si potevano fare, il Papa, il nostro Papa, lo chiamò. Ho letto quanto è successo al convegno di Milano. Sì. E questo mette a repentaglio la Chiesa. Io volevo chiedere la tua versione. Santità, la mia versione è semplicissima. Io sono stato invitato da una famiglia ad andare insieme a lei a questo incontro e poi 2 giorni dopo, cioè la domenica, è successo questo diciamo problema di comunicazione. Per quanto riguarda invece il tuo caso, la Chiesa lo sai, ha deciso, ma noi non abbiamo mai parlato, ci sono delle indagini in corso. Tu ti senti colpevole? Hai fatto qualche cosa ai bambini? Ma Santità, lei ha visto e lei lo sa. I bambini, io devo sapere la verità e voglio sapere esattamente, Don Mauro, la verità. Santità, lei ha conosciuto perché ha visto la documentazione e lei lo sa. Per cui è lei che mi ha... Sì, ma io voglio sentire direttamente dalle tue parole le cose. Le carte sono carte, io voglio sentire dalla tua voce la verità. Pronto, Don Mauro? Pronto? 4 anni e 9 mesi, 4 anni e 9 mesi. Pietro Bologna, vai, Pietro. Buonasera. Dimmi. Più Parenzo, meno Cruciani, invece io dico. Bene, però, ottimo, va benissimo. Detto questo... sulla parte dell'aspetto dell'alimentazione vegana, io sono assolutamente d'accordo con quello che diceve, però il ragionamento, dovremmo fare lo stesso ragionamento con i genitori che imbottiscono di hot dog, panini, gommoni, che si gonfiano nella pancia i propri bambini facendoli diventare dei grassocci a 5, 6 o 7 anni. È un altro discorso completamente diverso, non c'entra assolutamente nulla. No, ma non c'entra nulla. Quando una bambina di nemmeno 3 anni viene e McDonald's sono delle aziende criminali. Non esageriamo, non diciamo sciocchezze. Distruggono l'ambiente, ma non diciamo sciocchezze adesso. Le foreste amazzoniche. Ma quale foreste amazzoniche? Io al fish burger non rinuncio. Ma io non sono anch'io per la carne, però il discorso è questo, che multinazionali sono delle associazioni a delinquere. Sì, va bene, associazioni a delinquere, va bene Pietro. Il problema è un altro, è molto diverso un bambino di nemmeno 3 anni che viene ricoverato in fin di vita perché è debole, eccetera, e non è stato alimentato come si dovrebbe alimentare, ma quello è un altro discorso. Un bambino che viene... malattie, più lento rilascio, ma sono sempre... bambini che ricevono un'educazione alimentare, ma sono cose diverse dalla pubblicità e indotta dal mercato, che poi porta a problemi gravi della salute in futuro. Sono cose molto molto diverse. No, non sono cose diverse, le vuoi far diventare te diverse, ma Nicola Milano, vai Nicola. Nicola, dimmi. Giuseppe, vai dimmi. Come andiamo? Sempre in prima linea, In prima linea in che senso? Scusa, qui siamo alla radio, al fronte. Ma insomma, amico mio, siamo messi così. Prima dell'intervento, perché adesso che stai facendo? Scusa. Un congresso di partita, una cosa telegrafica, ma Savino da Bari, come mai non interviene più? Guarda che è un filosofo. Ma Savino, non lo so, mi può chiamare tranquillamente, perché non interviene più? Ogni tanto qualcuno scrive e mi dice: perché non interviene più Carlo da Reggio Emilia? Io meno manco male. Mi ricordo. No, male, guarda che Savino da Bari, guarda che è un filosofo. Ma cioè, Savino da Bari, Giuseppe, quello che diceva sempre, Giuseppe, ti voglio bene, Giuseppe. L'avete un po' sottovalutato. Ma non l'abbiamo sottovalutato, non è che lo chiamiamo apposta, o chiama lui oppure non chiamiamo, se ha qualcosa da dire chiami, non è un problema. Nicola, allora? No, l'intervento riguardava i quartieri a luci rosse e i coffee shop, no? Io nel 90, cioè quindi 26 anni fa, avevo una ragazza ad Amsterdam, andavo spesso ad Amsterdam, no? Sì. Praticamente, cioè, per farti capire, 26 anni, cioè, non credete, siamo il terzo mondo rispetto a questi argomenti, rispetto a quel paese. Ma lo sappiamo, non è che ci vuoi due, cioè non è che ci voleva Nicola da Milano per dirci che siamo il terzo mondo rispetto alla prostituzione, alla droga, eccetera. Cioè... Però c'era un problema, ci voleva un po' di coraggio per andare a prostitute, perché quando uscivi ti facevano l'applauso, praticamente c'era un sacco di italiani lì che attendevano, perché si formava una specie di cittadella, diciamo, la sera, no? Di gente che ti rondolava in questi quartieri. E quando uscivi ti facevano l'applauso, no? Praticamente, cioè, una figura un po' una figuraccia. Va bene, Nicola, ciao. Mario Parma, vai. Ciao, ciao a tutti. Ciao, dimmi, ciao. Dimmi. Allora, McDonald's in centro in una città d'arte, come Firenze. Allora? Che non ce l'ha nessuno al mondo. È un'esperienza unica al mondo, no? Cioè, un turista che viene in Italia, sì, che viene in Piazza del Duomo a Firenze, vive un'esperienza... Ma voi siete fuori dalla grazia di Dio, cioè, veramente... No, voi, ascoltami un attimo. Un turista che viene in Italia, va a Firenze, va nella Piazza del Duomo e vive un'esperienza che non può vivere da nessun'altra parte allora, al mondo... Che c'entra? Deve vivere un'esperienza che non può vivere da nessun'altra parte al mondo, non al McDonald's. Cazzo, il McDonald's ci può andare in qualsiasi altra parte del mondo. A parte no, che ma, a parte, Luca, va benissimo a parte mangiare che spesso, il panino a parte che spesso le stazioni ma... a parte che spesso le stazioni che voi dite McDonald's sono nelle stazioni o comunque appunto, i posti dove si mangia hamburger sono spesso appunto, sono dei monumenti appunto, importantissimi le stazioni italiane, per cui non diciamo cazzate, sono dei monumenti anche dal punto di vista architettonico, sono... Sì, la stazione di Milano va bene, quello che ti pare, d'accordo, ma quello che dice questo saggio ascolta, io non sono contro questa azienda, questi hamburger, anzi fish burger, non sono contro assolutamente, ma neanche io. Benvengano. Ma lì il sindaco può scegliere, ha il potere di scegliere se anziché mettere questo, mette una bottega di quelle antiche in cui si mangia il pecorino, quello buono, col miele sopra, un ottimo vinello gallo nero, ad esempio. Ma perché vuoi imporre alla gente quello che deve mangiare? No, quello che vuoi imporre un cavolo io. Ma il fishburger lo mangiano da un'altra parte. Fermi lì. Sì, pronto, al consultorio? Ah. E la zanzara? Vabbè, uguale. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. Cosa che hai detto? Piace all'uomo. La zanzara piace all'uomo. La zanzara piace all'uomo perché ha un deficit cognitivo. Ah, ho capito. No, poi hai detto ascolti la zanzara perché sono tutti matti. Esatto. Ma è per quello che è bella. Ma è proprio necessario sentire D'Alema che parla male di Renzi? Lo dobbiamo proprio mandare in onda, sì. Che dici? Direi di sì, straordinario. Come al solito il D'Alemone straordinario, ficcante. Vai, fallo sentire. Senti, bellissimo, non si sente una mazza, sembra di stare in anfiteatro. Metti più vicino questa minchia di microfono, dai. Non sono stato io che ho costruito le mie fortune politiche sull'idea di rottamare Renzi, ma lui, quando lui cominciò a dire... Se c'è qualcuno che ha dichiarato guerra, dice, però i maligni pare che non c'è nessuna guerra, ma se c'è qualcuno che ha dichiarato guerra fu Renzi, io non lo conoscevo neanche. Di Salamone il suo esercito. Vabbè, poi altre cose inutili, non ci deve essere il premier e il segretario nello stesso tempo, il partito abbandonato a se stesso. Certo, giusto. Ragazzi, o mi risolvete questo problema oppure chiudo qui il collegamento, eh. O mi risolvete questo cazzo di problema oppure chiudo il collegamento. Claudio da Pisa, vai. Ciao Cristiani. Dimmi. Senti, mi ascolti bene? Sì, ti ascolto, almeno sì. Te ti ascolto. Senti, bene. Voglio che me la dai la risposta su questo tema. Sì. Ascolta, io mi sono incazzato, a parte con tutti questi femminicidi, ma non voglio entrare per particolare, perché hai ragione te sul fatto femminicidio che non andrebbe detto. L'ultima è quella poverina ammazzata con 10 revolverate. Io volevo dire una cosa semplicissima. Anche quella presa, messa nel frigo pure, no? Sì, no, quella era la penultima, ce n'è un'altra. Vabbè, allora? Allora, io volevo dire, ma quando una donna viene pestata, diciamo, per la prima volta, quindi si reca in questura, fa denuncia, potrebbe avere un'arma nella borsetta? Mm. Il discorso è questo. Ma cosa vuol dire? Scusami, non ho capito. Cioè, voglio dire che una persona, quando uno fa una denuncia per stalking, andrebbe data un'arma a una donna? Non ho capito. Non è che gli andrebbe data, se ne fa richiesta lei, chiaramente. Vabbè, ma che c'entra? Ci sono delle regole per avere un'arma, amica mio. Purtroppo in Italia ci sono delle regole molto restrittive. Io sono per un modello americano, per figuriamoci. Ma scusa, tanto la persona che viene lì una volta, poi ci viene due, ci viene tre, ci viene quattro, alla fine si ammazza. Allora diamo la possibilità alle donne di mettersi un'arma nella borsetta, naturalmente. Ma ho capito, amico mio, ma è quello il problema, che procurarsi le armi in Italia è complicato, cioè non è che le danno le armi così a cazzo di cane. Una donna, se l'aggredisci in America, tira fuori il revolver e ti sbombola. Sì, cioè, vabbè, ci sono anche altre cose, ci sono anche altri metodi. Sì, adesso io la butto lì così perché sono un po' incazzato, perché cavolo, questo video ha dato 10 revolverate. Sì, va bene, per ammazzarla. Va bene, male. Va bene, malissimo. Sì, però, ma non è che bisogna dire, ma perché se una fa richiesta, cioè è chiaro che la cosa poi deve essere legalizzata. Ma come sfondi una porta aperta? Perché io sono a favore del fatto di procurarsi quasi liberamente le armi dando un documento. Cioè, una follia pura, infatti. Una follia. La gente che spara per strada. Ma vogliamo a una persona che già siamo sicuri che prima o poi la ammazzeranno. Va bene, allora, Claudio, ho capito. Luigi, Genova, dai. Hai capito. Luigi, vai. Ciao, Parenzo. Ciao Cruciani. Dimmi. Volevo chiedere una cosa, se poteva essere un deterrente per i fondamentalisti islamici. Dopo la post mortem, il fatto di essere i loro resti tumulati in una pelle di maiale e messi sotto terra. Non ho capito, scusami. È una cosa. Allora, se per i musulmani integralisti, questi terroristi, se alla loro morte i loro resti vengono tumulati e cuciti in una pelle di maiale, se le è impedito l'accesso al loro ma paradiso. Ma che stupidaggine! Ma che idiozia è? Vero. Ma cosa chiede? Ma che idiozia è? Che cosa vuol dire? Non ho capito, scusami. Che cosa è che vorresti fare? Allora, non ho capito se bene. Questo, tumulare i resti di un terrorista in una cucita in una pelle di maiale messa sottoterra. E che ma lei, vantaggio per porta? Pensare sta stupidaggine, scusi, quanto ci ha messo? Che vantaggio porta? Non ho capito. Allora, per loro questo è un affronto, è una cosa che va oltre la morte. Sì, e dunque? E quindi se ci sono i resti di un terrorista, gli faccio questo trattamento e lui non ha più la speranza di andare in paradiso. Dunque? Secondo la sua secondo la sua ideologia. Ho capito, così non secondo può. Secondo la sua religione. Sì, ho capito. Perché non dovrebbe andare in paradiso, scusi? Perché lui ha la speranza quando viene. Sì, lo so, ho capito, benissimo. Quando viene martire di andare e in secondo paradiso. Lei, secondo te, Luigi, se lui sa che invece i suoi resti vengono messi in una pelle di maiale, potrebbe desistere? Non so, dato che la morte non lo spaventa, il post mortem potrebbe spaventarlo. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Chi c'è da Pisa? Chi c'è da Pisa? Pronto? Pisa, Gioiella? Sì, bello. Come stai? Beh, insomma, si va avanti da vecchietti. Dimmi, dimmi, che mi volevi dire? C'è Renzi ora, che ci dà coraggio. Lui sgonzovigliola per l'Italia, per il mondo. Dà di intendere che Cristo è morto dal sonno. Uno senti quando parla. Bastava di sentire D'Alema ieri sera. E non c'ha più chi guida il partito. Ci va da lui a guidarlo. Chi? D'Alema ora? Non ho capito. Con chi ce l'hai? Con D'Alema o con Renzi? Non ho capito. Con tutti, quelli con lì tutti. Del PD. Hai visto ora? Si cana addosso, perché l'hanno fatta, Come dico c'è signora, scusa? Ha vinto la Lega, alla grande. Chi è che si caga addosso? Non ho capito. Non si cagano addosso, no? Quelli del PD ora hanno perso. Scusi, nonnina, scusi signora nonnina adorata toscana, mi scusi, intanto usi un linguaggio più consono anche alla sua età, perché voglio dire bravo, si fa per dire, perché parlare così volgare alla radio, una signora della sua fattezza, non mi pare il caso, primo. Vero, sì, bravo. Ecco, quindi moderi il linguaggio anzitutto. Poi all'interno del Partito Democratico nessuno, per usare le sue parole, si sta cagando addosso. Beh, scusi signore, Insomma. Gioiella, ma cosa ci volevi dire? Gioiella, è un nome di battaglia. No, così, Gioiella. Va bene così. Aspettate, vi passo un'altra persona. Chi ci devi passare? Non tutta ho la famiglia Adams. Chi è qua? Pronto. Ragazzi, per me è un sogno parlare con voi. Io sono il nipote della nonna. Signora Gioiella. Ah, nipote di Gioiella. Che ci volevi dire? Ma io personalmente niente, un cazzo. Complimenti perché siete la coppia migliore che c'è in questo momento. Meglio forse di Bud Spencer e Terence Hill, cioè avete raggiunto dei livelli. Uno è morto, però adesso, amico mio, scusami. No, ma... va bene, nel senso, a livello diciamo storico. Ecco. Va bene, grazie amico mio. Ciao, Stefano Ferrara, vai. Una volata. Stefano, dimmi. Sono qui. Buongiorno, bello. Vai Stefano, dimmi. Ma guarda, noi il McDonald's, io chiamo da Ferrara, il McDonald's ce l'abbiamo in centro storico di Chianto Duomo ed è frequentato... Ma anche a Milano, cioè sono tutte puttanate, sono tutte lotte politiche interne a Firenze o cose di cui non mi interessa assolutamente nulla. Cioè la realtà è che ancora si discute in Italia se farlo o non farlo, se metterlo o no al centro storico. Discussioni antidiluviane, discussioni vecchie, vecchissime. Discussioni sulla costruzione di un territorio, sull'urbanizzazione, su scelte politiche. È pieno di hamburgerie o cose del genere ovunque, ma sono tutte stronzate, ci sono altre cose dietro, non c'è questa roba qua. Dai, cosa su. C'è dietro? Ma non lo so, ci saranno discussioni tra le aziende, tra il comune, problemi politici all'interno della giunta di Nardella, ma non lo so. Ma un comune, adesso lascia star Firenze, un comune potrà decidere ad esempio che in centro storico vengono valorizzate, ma non è così, ma è le pieno... botteghe del territorio? Ma quali botteghe? Ma il problema non è quello, ma non è quella la cosa, non è quella. Ma è una scelta politica o no? Ma dai, sì. Marco da Roma, dai, Marco. Marco da Roma. Ciao, scusa, ciao, io mi confondo sempre, tra Parenzo e Cruciani, no, non ti incazzate, chi è il costruttore? Io sono Cruciani e lui è Parenzo, sei Cruciani, intanto lo sai benissimo, Marco, vorrei... non farlo spiritoso, dai. No, ti giuro, perché mi confondo come cognome, io non è, so benissimo, vi individuo fisicamente, ma non vi individuo con il nome e cognome. Scusa, allora, proprio con te, sulla liberalizzazione delle armi, ma che cazzate vai dicendo, la liberalizzazione come negli Stati Uniti? Mettiamo i metal detector negli ospedali, nelle scuole, mettiamoli dappertutto. Ma invece se facciamo il contrario, proprio che le armi non le diamo a nessuno... Sì, non le armi non le diamo a nessuno. Bene, tutti senza le armi, sì, ma è questo nel mondo del veganesimo, forse, nel mondo della... No, nel mondo del veganesimo. Nel mondo della, così, degli ayurvedici, nel mondo delle comunità cristiane, non so dove. Sì, nessuno deve avere le armi. No, ma certo, no, ma per carità, va bene, va bene tutto. Se è auspicabile. Che c'ha le armi, ti prende e ti arresta, ma ti rimani. Ma no, va bene, nessuno ha le armi, va bene, ma per carità. Nessuno, solo le polizie e le forze dell'ordine. Bravo, giusto, ha ragione, questa sarebbe la cosa più corretta. Ma che strozzata è, le armi a tutti, facciamo far west. Io non ho detto le armi a tutti, le armi in alcuni stati americani, basta un documento. Un documento. Io sono invece d'accordo con questa roba qua, d'accordissimo. Cioè, una volta gli americani sono coglioni, una volta gli americani sono coglioni. Ma per me non sono... In questo caso non so coglioni per niente, per cui amico mio. Cioè... Ma difatti si vede, ogni tanto arriva il pazzo. Sì. Tu lo sai qual è la percentuale di attentati che dipendono da armi illegali? Cioè da armi illegali. Non è un problema. Il 10% di attentati o dunque di morti da arma da fuoco, solo il 10% viene dalla compravendita di armi legale. Il resto è tutte armi illegali. Sai quanto è il 10% della popolazione? Ma non lo so, comunque è minoritario. Ciao Marco, Saro Torino, vai. Ciao, buonasera, grazie. volevo dire se non è giunto il momento di mettere fuori legge almeno alcuni vegani, visto quello che è successo alla bambina fuori di due legge. Anni, è fuori legge sì, perché la bambina di due anni che sta morendo in ospedale sì, è in assenza di l'hanno salvata per fortuna? Sì, però dico in assenza di vitamina B12. Ora tutto il mondo sa che la B12 si assume dunque? Con derivati animali, uova, polli, galline e tutto il resto. Quindi non si assume la B12 con una dieta vegetale. Allora, o mettono fuori legge sti pazzi, almeno quelli che non danno da mangiare ai bambini, o non so dove si va a finire. Vi ringrazio e lo aspetto per ciao, ciao, ciao, ciao. Parenzo, salvaci dalle puttanate di Cruciano. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Helios Patient Portal è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. La Zanzara. Allora, ieri Parenzo ti sei perso Luigi da Catania, tipi da Zanzara, yeah. Vai. Tipi da Zanzara. Luigi. Cruciani. Dimmi. Ma che dici, minchia, ma tu non ti rendi conto che sei un coglione? No, non cioè, mi rendo conto. No, tu non ti rendi conto, secondo me lo sanno. Ecco uno dei primi cretini che arriva. Vai. Mi fai parlare o vai che mi diverto, io? vai che mi diverto. Di chiudere io il telefono, stronzo. Ma di cosa stai parlando nel concreto? Di che parli? Ma nel concreto ti voglio dire che tu sei un pezzo di merda. Ma perché dici questo? Aspetta, ma perché lo dici? Tutto, in generale. Le puttane, ma perché non lo fare fare tua figlia fa 2-3 anni la puttana, stronzo? Luigi, ma sei sposato? Sì. Sei sposato o no? Sì, con tua sorella ogni tanto c'è da scopare, allora... Ora, siccome sono catanese, ti parlo un po' catanese. Che parlami catanese, che mi piace, allora, sì, parlami catanese. Tu sì, figli su caninchi, un uno respiro, un pezzo di merda, con l'aria da motto buttana, un gabinetto, un cesso, un pupo, gli arusso, depravato, cesso. Ah, un pupo, dunque ce l'hai anche con i gay in tutto questo, un pupo. Pupo significa gay, per chi non lo sapesse. Sì. Vai, parla. Mi fa parlare su caminchi di tuo soro o essere un telefono? Che vuol dire su caminchi di tua sorella, la traduzione, Esatto, su caminchi di tuo soro, capisci, tu sai. Allora, noi a Catania, sì. Il sindaco Mattia, abbiamo una ammonizza, gli richiamo col tappo, ci vediamo un pacco, ci vediamo con su, abbiamo una ammonizza. Ora io, siccome non chiamo la minchia a parlare con te, perché se siccome mi sono rotti i coglioni a parlare, esatto, questa è la traduzione. Siccome non chiamo la minchia a parlare con te, che mi unciai, bella questa, com'è che si dice unciai la minchia? Mi sono unciato la minchia. Mi unciavo, perché se invece in mezzo, io ti dico Mattia, giudice secondo le conferenze, non ce ne rogno. Io ti saluto. E fatela mettere in dopo uno, e fatela che ti mettono gioco. Tipi da Zanzara. Oh, forse c'eri però, forse c'eri. C'ero, infatti mi è sembrato anche molto lucido nella sua pacata analisi, diciamo. Beh, lucido molto adesso, lucido. No, ma non so se hai notato la mia traduzione simultanea. Sì, bravissimo, no, beh, tu hai vissuto per anni in Sicilia. La mia Siracusa, traduzione quindi... simultanea, meravigliosa, bravo, dal catanese, sì, però, dal catanese. Però mi suggerivano che la parola Iarruso significa anch'essa omosessuale, gay, frocio, eccetera. Iarruso. Però la scoperta delle ultime ore, cari amici, la scoperta delle ultime ore si chiama Pamela Scuppa, detta anche Pam il Vulcano, una signorina che ha iniziato a fare la cura del piscio, l'urinoterapia. Mancava. L'urinoterapia ed è anche fruttariana. Io mi faccio i miei e me li faccio proprio alla grande, quindi camperò non 100 ma 300 anni, perché mangio frutta e in più faccio anche questa cosa. Allora, in questo bicchierino c'è la mia urina, la mia pipì, che ho opportunamente messo dentro questo bicchierino, perché non perché ve la voglio far vedere, perché la pipì la fanno tutti, adesso non è che Pam fa una cosa strana, ma Pam la beve. Allora, io sarò strano, ognuno di noi ha le sue stranezze, però ragazzi, quelli che fanno l'urinoterapia non si battono, senti ancora, senti. Questa notte, parlando con un mio amico che fa Amaroli già da 2 anni, mi è venuta proprio, cioè, su questa, come quel famoso momento che vi ho raccontato, quando l'8 giugno dell'anno scorso mi è scattato un qualcosa dentro che ha detto: da adesso Pam frutta, da adesso Pam bevi la tua pipì. Allora, Amaroli significa in realtà la pipì, secondo la dieta ayurvedica, così mi suggeriscono. Come sì. Prima ho detto Iarruso, in realtà non significa gay, significa, credo, pezzo di merda, una cosa di questo tipo, figlio di puttana, una cosa. Sì. Ormai dobbiamo tradurre alcune cose. Devo ancora sperimentare, perché la prima volta che l'ho bevuta è stata stanotte, però devo testimoniare che ho notato già una differenza. Allora, io normalmente quando mi alzavo... avevo un po' la bocca asciutta, un po', cioè, sentivo un po' questa cosa nella bocca. Io stamattina, quando mi sono alzata, avevo una bocca perfetta. E in più, non so, avevo come una marcia in più. Una marcia in più dopo aver bevuto la pipì. È contenta lei, guarda, amico mio, contenti tutti. Basta che un amico suo non vada a cena da lei e lei, aprendo il frigo, dice: vuoi bere un po' di pipì? Ecco, basta questo. Poi se anche i suoi amici vogliono bere pipì a cena a casa sua, ben venga, insomma, chi se ne frega. Non posso aspettare tanto, perché l'ho fatta adesso proprio un po' di minuti fa e non voglio aspettare tanto. E quindi la bevo. Cin cin. Wow. Il gusto è corposo e ha un retrogusto un po' che ricorda il latte. Ne avevo sentito parlare, cioè, io leggendo avevo letto che c'era questo retrogusto di latte, che io dicevo: mi sembra tanto assurdo, ve lo giuro, ha un retrogusto di latte, latte vegetale, fruttoso. Però, essendo un'urina concentrata, perché io non urino da questa notte, ha un retrogusto diverso da quella che avevo fatto questa notte, che avevo bevuto questa notte, un pochino più amarognolo. Mamma mia, ragazzi, E poi dopo lascia pure un gusto in bocca che è più buono dopo, cioè, mentre lo bevi sì, lo senti, però dopo nella bocca rimane più gradevole. Ed è come una bevanda, come una tisana, cioè, di quelle naturali, fruttose, però particolare, non ve la so descrivere. Provate a mangiare solo frutta per un periodo e poi fare Amaroli, e poi dopo mi saprete dire. Mamma mia, roba da ricovero, quello proprio immediato, cioè, roba da... No, 2 ambulanze, 3, 4, 5. Però, cioè, giustamente, l'ottimo Dario Vergassola mi scrive: cazzarola, ma sempre all'ora di cena ste cose. Sì, d'accordo, caro amico Dario Vergassola. È vero, fai che non anche si cena tu alle 8 meno un quarto, esatto, perché anche lì, esatto, c'è questo. E uno poi, come Dario, cena alle 7, alle 8 meno un quarto, 8 meno 20, sì. Io che ci nonno posso fare? Nonno Dario, Sì, è nonno, nonno Vergassola. È diventato nonno. Vergassola, certo, è diventato nonno. Vergassola è nonno, è giovane papà e quindi è diventato giovane nonno. Nonno Vergassola. Nonno Vergassola. Nonno Dario. Ma roba incredibile. Ma c'ha la faccia da ragazzino, cioè la faccia da ragazzino è già nonno, è roba pazzesca, dai. Potrebbe innanzitutto iniziare la dieta vegana il nipote, e poi lui, sì, a quell'età potrebbe provare anche lui l'urinoterapia, potrebbe, certo, provare l'urinoterapia, sì, come terapia fondamentale, sì, per il progresso dell'umanità, per il sol dell'avvenire, queste cose qua, cioè sostituire l'urinoterapia all'ideologia, capito? Daniele, provincia di Florence, Firenze, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Senti, stavo sentendo la trasmissione e hai detto, sì, appunto, che poteva, insomma, il McDonald's in piazza Firenze poteva andare bene. Però secondo me ti ho detto una pischerata. Ecco, cioè, nel senso, secondo me il centro di Firenze dovrebbe essere off-limit. Cioè, voi avete un'idea tutta antica, aspetta, di quello che è off-limit. Ma è un'idea assurda, ma non, ragazzi, che cosa è che vi dà fastidio? Le scritte gialla e rossa, al limite possono dare fastidio a me per motivi calcistici, ma non le scritte gialle e rosse. Nel Medioevo, che la gente, appunto, l'hai detto, la merda e piscia dalle finestre in mezzo a Firenze. Vabbè, ma se, tu, se ti piace così va benissimo, per carità, cioè, non capisco il problema, francamente non capisco il problema, sono beghe politiche, questioni... Ma che beghe politiche? Sono scelte straordinarie, cioè Nardella su questo ha ragione. Ma quale dice, ragione? Siccome la città... Cioè, ma scusa, se un sindaco non ha anche competenza su questo, avrà il diritto di decidere che magari è meglio mangiare il lampredotto? Vabbè Daniele, no, questo, quello che Fiorentino. Pensi tu già lo so, mi fai sentire Daniele un attimo. Ma Daniele cosa vuoi? Mi dà ragione, quindi è intelligente, bravo. Sì, certo, ma, per principio. Ma oltre, tipo anche i minimarket. Cioè un lavoro in centro di Firenze, certo, è una cosa incredibile, come il piazzale Michelangelo. Ci sono, ora l'hanno levate, ma ragazzi, nessuno protesta altro, perché piazza del Duomo a Milano c'è un McDonald's, nessuno protesta, non rompe i coglioni nessuno, c'è al Louvre, c'è dappertutto. Vabbè, ma a te interessa Firenze perché cioè, ma io trovo assurdo, adesso non è che una questione di Stato, trovo assurdo che ancora si discuta oggi se mettere un McDonald's o no a Firenze. Giuseppe Belluno, no, vai. C'è già a Firenze McDonald's. Giuseppe, no, in quella piazza a Firenze, certo. Vabbè, Giuseppe lì, Belluno, il vai. Sindaco giustamente ha deciso di no. Dopo aver detto di sì, Giuseppe, vai. Allora, io invece i McDonald's li farei chiudere tutti. Sì, ecco tutti, pazzo. Di principio tutti, sì, tutti. Ecco, perché? Pazzo. Compreso i Burger King, compreso tutti i grandi chiudiamo catene. Tutto, ma tutti. Che ci frega. Ecco, sì, ma dai, chiudiamo tutto. Ma tu ti ricordi, Cruciani, solo che sei ancora un ragazzaccio, non hai presente l'Italia, la bellezza dell'Italia, le piccole e medie imprese e i ristoranti. Ma cosa c'entra questo? No, c'entra, allora ti dico. Cosa c'entra, dici, cosa c'entra, dai, cosa c'entra? Assumono persone, ma secondo te... La gente mangia di più perché arriva al McDonald's? Ma non lo so, ma... loro assumono 10 persone e dopo un anno, due anni ci accorgiamo che hanno chiuso 10 ristoranti? E vabbè, hanno chiuso, significa questo che non stanno al passo col mercato, chi se ne frega. Noi mangiamo quella merda lì? Con ma non lo so, ma la merda, la merda si può mangiare anche in un ristorante cosiddetto tradizionale, non ti credo. Questo è sicuro. Cioè, non diciamo quindi stronzate, noi dobbiamo dai. Andare tutti nella grande... Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Catene. Ma puoi andare dove ti pare, c'è libertà di scelta per fortuna, sono altri che vogliono impedire a quelli di essere al centro. No, stiamo impazzendo, ci stiamo tagliando le palle per conto. Ma le nostro. Palle te le tagli tu, io non me le taglio, non me le taglio no, per no. Niente. Ciao, ciao Giuseppe, ciao, ciao, ciao. Proviamo a chiamare Red Ronnie su questa storia del bambino vegano, dai. Fantastico. Il bambino. Vai Red, vai, rispondi, ti prego, rispondi, rispondi. Non sa un cazzo, non è che l'ho avvertito, però. Pronto? Eccolo. Red, ci sei? Chi è? Sono Cruciani, ciao, scusa, scusa se ti rompo i coglioni. Che stai a fare? Stai a dormire, che stai a fare? Te sei fortunato che rispondo agli sconosciuti, ai numeri sconosciuti. Sto andando a una cena di lavoro. Che è successo? Cena di vegana, sicuro, però, Di sicuro non mi parli di musica. No, di musica no, se vuoi parliamo anche di musica, ma non mi sembra il caso. No, la bambina di 3 anni, quella là di quasi 3 anni, portata in ospedale, in fin di vita, i genitori vegani, la vitamina, eccetera, salvata proprio per miracolo dai medici, eccetera. Appartiene alla tua cosiddetta setta, no setta, alla tua comunità, la grande comunità vegana che porta i bambini sull'orlo della morte, te la posso mettere così? Certo, tu la puoi mettere così, peccato che le mie figlie stanno benissimo e sono vegane, quindi non è esatto quello che dici. Cioè, secondo te è tutta una cosa mediatica, ma la colpa non è del veganesimo? Ma se ben ricordo anche un anno fa ci si occupò di un altro bambino. Sì, è vero, quindi, è vero. Quindi diciamo che la notizia sono due notizie in 2 anni, ok? Mentre invece, ad esempio, non fa notizia che dei pediatri del Texas... facciano uno spot dove dicono che l'hamburger è come l'eroina e quindi c'è una mamma che inietta eroina al bambino, poi dice no, con la siringa dice se non vuoi iniettare della spazzatura perché gliela fai mangiare. Quindi non fa notizia che ci sono 50 milioni di bambini obesi, non sovrappeso, sono già 150. Cioè non fa notizia che le merendine, le bibite gasate, vabbè, prodotti, ma che c'è? No, però questo è interessante. Questo è interessante. Le merendine, no, è interessante. Io sono sempre, lo sai, io probabilmente su molte cose non la penso come Red, però mi piace molto il suo essere sempre, come dire, controcorrente rispetto a quello che avviene. Allora, la notizia di oggi è questa roba qua. Di dov'è? A Firenze? Sì. Dov'è? A Bologna? Firenze? Non mi ricordo. Non lo so. No, a Genova, scusa, in Liguria. Al Gaslini viene portata questa bambina di 3 anni. Tu dici, sì, d'accordo, probabilmente i genitori no, non hanno controllato bene. Questo lo ritieni possibile oppure è tutta una montatura? Non ho capito. No, chiaro che i genitori hanno delle colpe sull'alimentazione della bambina, ma non c'entra il veganesimo, c'entra le cose che gli danno da mangiare, perché se una bambina non gli dai un insieme di verdure che compensino tutte le necessità, le carenze di un qualsiasi corpo umano, è chiaro che è colpa però dei era genitori. Peso sotto la media, movimenti rallentati, emoglobina certo, bassissima, certo, eccetera, certo. Cose tipiche dicono i medici, di chi fa una dieta vegana, e lo dicono i medici. Ho capito, ma gli stessi medici dicono che l'hamburger provoca asma nei bambini. Da uno studio proprio, da uno studio provoca cosa? Provoca asma. L'asma. Vabbè, lo studio non è che tutti gli studi vanno presi come l'oro colato. È vero, però ad esempio, se uno entra dentro a un luogo dove vendono hamburger, quando uno compra le sigarette, ci dovrebbe essere scritto: attenzione, può provocare asma. Addirittura. Asma, dai, ma che. Cioè, non ho capito, ma questo è importante perché siccome si diffondono in Italia, io ne ho sotto casa 3-4, un sacco di hamburgerie. Bene. E sono degli esercizi commerciali che hanno anche una certa. No, fanno muovere anche l'economia. Tu sostieni, da quello che ho capito, che è come l'eroina, cioè gli hamburger. No, l'ho detto prima. Allora, no, non sostengo io, lo sostiene. Vabbè, lo condividi però tu. Tiene l'associazione dei pediatri del Texas che ha fatto un video shock, vado a cercare su internet. Sì, sì. Dove una mamma entra in casa e sta per prepara la siringa, tutto, poi alla fine invece di iniettare dell'eroina al bambino gli dà un hamburger. Ma vabbè, ma che c'entra, dai, ma è come tutte le cose. C'è anche un film bellissimo che si chiama Super Size Me, che dice e allora no, però scusa, ma tu la condividi questa cosa o no, Red? La condividi questa cosa? Cioè l'hamburger è come l'eroina, è come le sigarette? No, non è che, però è chiaro che l'hamburger non fa bene alla salute. Dipende, se ne mangi 4, se ne mangi 10 al giorno, sì, se ne mangi uno non succede. No, si parla di 3 alla settimana fanno già male. Cioè, 3 alla settimana fa 3 hamburger a settimana fanno male. Ma anche se uno si mangia la pasta, come si dice, alla carrellia a Roma, a Griscia, che fa male tutti i giorni. Dimmi. Mentre dicevi questo, ho cercato su internet, eccolo qua, sul telefono, da uno studio è emerso che i bambini che mangiano più di 3 volte a settimana hamburger hanno molte più probabilità di contrarre l'asma. L'articolo è stato pubblicato sulla rivista Thorax, che ha esaminato un campione di 50.000 bambini. Dunque, mettere fuori dalle hamburgerie per le sigarette. Come le sigarette. Poi uno è libero di fare ciò che vuole. Per me uno è assolutamente libero, cioè, di mangiare hamburger. Secondo te, questi qua che producono gli hamburger, cioè, sono associazioni, specie di associazioni criminali, allora? Cioè, sono dei. Cioè, quelli che producono hamburger, eccetera, su larga scala, multinazionale, eccetera, sono una specie di associazione a delinquere. E chi produce le sigarette? Chi produce l'alcol? Io ti sto dicendo questa cosa. Secondo lui è la stessa cosa, che te devo dire? Non si può dire che è la stessa cosa, è una follia. Perché? È come dire chi produce la pasta, la gricia o l'altra però pasta. Però Red è coerente, io non sono d'accordo. Se è una sciocchezza, è una sciocchezza, scusa. Se tu vuoi dare degli hamburger ai tuoi figli, lo faccio, certo. Bravo, tagli degli hamburger. Però io ti consiglio hamburger di fare una kasher, cosa. Ma lo dico, faccio. Figlio, ma sei kasher. Però ti consiglio di fare una cosa. Prova un mese di fare con i tuoi figli un'alimentazione vegetariana e poi vedi i risultati nella loro salute. Ma che vegetariani? I miei figli una volta a settimana mangiano il pesce, 2 volte a settimana mangiano la carne e ogni tanto mangiano anche l'hamburgerino con le patatine fritte e il ketchup sopra. I tuoi figli poi si ribelleranno a te che gli dici allora una volta a settimana hamburger, 2 volte a settimana pesce, ma cavolo, ma lasciali liberi, mi devo mangiare quello che voglio. Cioè i bambini grassi secondo te lo stesso problema di qualcuno, cioè bambini grassi sono quelli che il problema, l'obesità è un gravissimo problema mondiale. Vabbè, questo si sa, sono certo italiano. E attenzione, tutto questo spazio, il vegetarianesimo eccetera, sta uscendo per un motivo molto semplice. Perché? Perché si sono resi conto che non si può più spendere così soldi nell'industria farmacologica per la gente che si ammala e quindi e dunque che devono fare? E inevitabilmente si mangi meglio, cioè io veramente da cioè secondo te le notizie negative sui vegani che escono e sono pompate perché in questo modo devono riportare la gente a consumare più carne? Quando ci sono degli interessi economici dietro a qualsiasi cosa, che può essere il calcio, può essere la musica, può essere in questo caso l'alimentazione. Dici, si muovono grandi interessi economici. Cioè il consumo di carne è calato e dunque bisogna farlo ricrescere un'altra volta. Certo, il signor Cremonini non credo che sia contento se non può comprarsi un altro. Non è che il signor Cremonini, che io saluto e che è un mio grande ascoltatore, eccetera. Certo, ma non credo che sia contento se cala il consumo della carne. Ho capito, ma non è che il grande burattinaio. Non è che il grande burattinaio che muove le notizie per far impaurire le persone e per farle tornare a consumare carne che è diminuita. Non credo che abbia questo potere, dai, su, Red. Ma sai, ci sono un insieme di interessi collaterali che fanno sì che i consigli alimentari che ci danno non sono quelli giusti. Cioè, secondo te ci sono queste aziende qua, muovono anche l'informazione in un certo modo? No, dillo chiaramente. Ma non è soltanto, attenzione, non è soltanto la carne, chi vende carne, c'è chi alleva carne. C'è chi macella carne. Eh no, appunto. Perché mica sono dei criminali di Gomorra, scusa. No, non ti dico questo, c'è un interesse a far sì che... No, per lui sono cose dei criminali, praticamente. Cioè, non è questione... No, attenzione. Ma li consideri dei criminali, dai, Red, su, li consideri... Secondo te Cremonini è un mezzo assassino criminale, dai. Ma che assassino? Un imprenditore straordinario, quello assassino. Cremonini è un bravissimo imprenditore che sa fare in maniera impareggiabile il suo mestiere. Purtroppo per lui io non, mentre una volta lo alimentavo a dei livelli incredibili, perché cioè io tu speri che fallisca, speri che fallisca alla fine. Nella tua ottica sì, speri che fallisca. Se no, tu non... No, quando io ho smesso di mangiare latte, il mio paese mi ha detto, ma tu mi fai fallire. Io gli ho detto, no, non ti faccio fallire, comincia a vendere. Si deve riconvertire, no, si deve riconvertire. Certo. Quando io incontrai di Tanzi, che la sì, Parma sì. aveva vinto, come, io gli dissi, guarda che il latte fa male, crea l'alternativa. Oggi un'azienda in Bologna si devono rieducare, questi qua si devono rieducare. E sta vendendo tantissimo latte vegetale, latte di soia, latte vegetale, yogurt di soia. Cremonini si metterà a coltivare le margherite. Senti una cosa, l'edera. Senti una cosa, ma non ho capito se i pediatri oggi dicono che la carne e il pesce sono necessari, sono tutti prezzolati secondo te? No, io non credo nella malafede di tutte le persone. Credo che se tu studi per tutta la vita che Genova è in Lombardia e vai a dare un esame e dici che Genova è in Lombardia... Allora, sono ignoranti allora. Sì, perché difatti i medici non studiano l'alimentazione. Ma è pieno di persone che vanno in televisione e che ci dicono carne e pesce sono necessari, tutti ignoranti, secondo te. I medici dicono sempre che bisogna mangiare poco ma di tutto, che è una cazzata. È una cazzata. Sì. I festival della porchetta li elimineresti, li cancelleresti? Ma no, ma li possono fare, ti ripeto Giuseppe, la gente è libera di mangiare qualsiasi cosa, io non elimino niente, non elimino neanche i cacciatori, a meno che non mi vengano a sparare vicino a casa mia, come fanno? Quindi per me, se uno ritiene, io sono nato, guarda, mio zio era cacciatore e la sera gli... Beh certo, eliminarli come si fa a eliminarli, scusa? No, appunto, mio padre era in un'azienda dove allevavano tori, quindi io... Sei cresciuto storto, signore. Sono cresciuto male, mi hanno disegnato così, Giuseppe. Ma tu le calpesti, le formiche o no? Purtroppo sì. Come purtroppo? È inevitabile. Un'ecatombe farai, un'ecatombe ogni giorno. Un'ecatombe, ne farò un'ecatombe come fai tu, però con una differenza che almeno dove io posso intervenire cerco di evitare. Ma attenzione, il fatto etico, ci tengo a sottolinearlo, è subentrato dopo 5 anni che non mangiavo carne. Io l'ho fatto con un fatto di salute. No, però scusami, sulle formiche, scusami perché vado ai matti. A casa mia l'altro giorno, purtroppo in cucina, scopro che sotto il tavolo c'era una colonnina di maledette formiche. Ma le eliminate col cosa, ma eliminate e tu che fai in questo caso? Scusa, Red, che fai quando vedi la colonna di formiche? Che fai a casa tua? Non c'è a casa mia. Ma metti che avviene, ci sono le, che ci fai con le formiche? Le elimini, immagino, no? Ma per forza, no. Ma non lo so. Se no. Mi ci trovo, mi sa. Però di fronte a un bel dilemma. Un bel dilemma. Io avevo il dilemma avevo il dilemma che erano lì a rompermi i coglioni in cucina e quindi ho preso lo spray adatto. Ma certo, le calpesti, le elimini, le schiacci, fai di tutto. Il dilemma di Red Ronnie se uccidere una formica o no. Dai, Red. Ma vabbè ragazzi, ma lo so, ho capito, ma c'è la coscienza sulle formiche, io che posso capire ma le formiche no, Giuseppe, amico mio. Ma ho capito Giuseppe, ma se un giorno ti insegnassero, ti dicessero come fanno sesso le formiche, tu ti innamoreresti di questo fatto, perché con te bisogna parlare di come sesso. Fanno le sesso? No, io non ho, sei tu che apri la discussione sul sesso, aspetta un attimo, c'è la pubblicità, fermo che c'è la pubblicità. La zanzara, come la vita d'altronde, è come una scala di un pollaio, corta e piena di merda. La zanzara. Com'è la storia delle formiche, Red? Poi ti lascio. Com'è la storia? Ma io non so minimamente come fanno sesso le formiche, ma siccome volevo allentare la pressione, ho nominato la parola ecco. Sesso, ma no, e tu hai abboccato. Ma io non ho abboccato, ma non so il numero, non ti ho fatto una domanda sul sesso, perché tanto so benissimo come la pensi sul sesso dei vegani, ma non è questo l'argomento, dai, ma no, che se ne frega. No, sesso vegani, no, uno è libero di fare qualsiasi ah no, cosa. Tu dici vegan is better, do it better, lo so che non sostiene. Lo dico io, ha messo una maglietta Madonna, non l'ho messa ah io. Beh, allora se ha messo la maglietta Madonna, guarda, do it better. Beh, Madonna sei abbastanza esperta. Ah beh sì, certo. Ciao, ciao amico mio, ciao. Giuseppe, ti prego, maglietta subito della donna appoggiata al lampione con la scritta La Zanzara, ti prego, maglietta subito! Ragazzi, è tornato Carmine, il Karma Quotidiano. Karma Quotidiano è andato a Nova Gorica. È andato a Nova Gorica, bordello in Slovenia. Per il Karma Quotidiano, tanto per dirvi che non è vero che siamo dei miserabili, che andiamo a troie. Sabato sera ho fatto una conoscenza interessante, ho conosciuto a Nova Gorica un medico chirurgo di un ospedale importante di Milano, praticamente pure lui va a figa una volta a mese come me. Sessant'anni, trombava come un riccio, andava e veniva. Ma non vi posso dire in quale ospedale. Un fenomeno, ragazzi, un fenomeno! Dario L'Aquila, vai! Guarda, allora io sono rimasto molto colpito dalle infinite competenze di Red Ronnie. Un mese fa è riuscito a scombinare il mondo dell'autismo con le sue teorie sui vaccini. Adesso è anche un profondo esperto di hamburger, di hamburger e di alimentazione. La vostra trasmissione è molto seguita. Quando ospitate personaggi di questo genere, contrapponete persone preparate, sennò rischiate. No, qui non siamo mica porta a porta, amico mio. No, cioè, non siamo né a porta a porta né a virus. Noi non contrapponiamo nessuno, certo, facciamo il cazzo che ci pare. Io voglio invitare. Invito Red Ronnie che dice le sue cose, punto e basta. Sì, comunque, guarda, questa cosa qui della specializzazione. Mettiti vicino qualcuno. Ma io non metto. Perché lui si mette sulla tastiera, fa le ricerche e dice cazzate. Poi la gente ricopre le Dario, rifiuto l'idea che per essere ospite e parlare di cose che riguardano anche la salute dei cittadini, l'alimentazione, eccetera, uno debba essere medico, professore, universitario, eccetera, eccetera. Su questo è sono d'accordo con una te, stronzata. Però le persone si possono informare anche da soli. Poi non è che qui è il simposio di filosofia, sì, o siamo in una sede ufficiale. Questa è una trasmissione radiofonica, uno show radiofonico, dunque non ci sono. Ma secondo te, dei tuoi ascoltatori, quanti possono capire le affermazioni? Ma non mi interessa, non è interessante questa roba qui. Cioè, non mi pare che. Non è interessante. Degli studi, pensa che gli hamburger siano il male. Ma quali sono gli studi? Dice le bagianate, poi fa casino. Ma non lo so, io sai cosa ne penso degli studi. Ma non possiamo mandare in giro queste cazzate qua. Ma mandi in giro, c'è tanta roba che va in giro, che c'entra? Cioè, sono opinioni basate su certe cose, opinioni basate su certe ricerche, su certe cose, magari sono sbagliate. Ma non è che si può impedire alle persone di parlare e bisogna mettere accanto la badante presunta esperta. Dai, su, è una stronzata questa roba qua. Lorenza, Genova, dai. Pronto? Dimmi, Lorenza. Pronto? Dimmi. Ma non volevo dire su tutta questa disquisizione sugli hamburger a Firenze, sul McDonald's, come si fa a dare in mano a Nardella quella faccia, lasciamo stare, che ha le facce qui non sono in discussione, sì, però ognuno ha la faccia che ha. Certo, però a un'intervista delle Iene o all'Aria che tirano, sì, mi ricordo. Alla domanda dove è esposto l'ultima cena di Leonardo, ha risposto a Firenze. Sì. E come si fa a dare a una persona così ignorante? Non sapeva dove era l'ultima cena. Ho capito, però è sindaco della città più bella del mondo. Ha delle lacune pure lui. Ma grosse. Questo caso ha delle lacune. Pensava che l'ultima cena fosse a Firenze, invece è del cenacolo vinciano, quello che è. non può lui decidere se. Ma adesso non è perché uno non sa dov'è l'ultima cena, non può decidere su McDonald's o no. Dai, questa è una stronzata. Io contesto la decisione. Sarà stato capra perché non sapeva dov'era l'ultima cena, me lo ricordo perfettamente. Questa roba qua. Pensava che fosse a Firenze, invece è da un'altra parte. Va bene, ma non è che per questo non può decidere, dai, su. No, cioè, certo, però si fa una figura un po'. Ragazzi, Trump concorre per la presidenza americana, è in corsa per diventare presidente degli Stati Uniti e pensa che il Belgio sia una beautiful city, te lo ricordi? Cioè, di che stiamo parlando, dai, su. Certo, certo, però mi ha scandalizzato un po' che intervenga sulle cose una persona così tanarda come Nardella. Ciao, parla. Lorenza, ciao. Grazie, Giuseppe, grazie. Milano, vai, Giuseppe, dimmi. Eccomi, ciao. Dimmi. Volevo dirti, su Red Ronnie, ho sentito che parlava... A proposito di aziende farmaceutiche che sì. Vuol dire, lucrano su... io organizzo convention, riunioni e il buon Red Ronnie... Organizzi convention di che cosa, scusami? Di aziende farmaceutiche, di aziende in generale che fanno riunioni con allora? I venditori. E buon Red Ronnie ha partecipato a convention di questo tipo, pagato dalle aziende farmaceutiche. Questo ti assume la responsabilità di quello che dici? Io non lo so, cioè non so se sia mai stato pagato da aziende farmaceutiche, eccetera. Non è mica un no, non è mica un delitto, non è essere pagati dalla mafia o dalla camorra, certamente. Esatto. Però forse nella sua ottica sì, nell'ottica di Red Ronnie sì, non lo so. Tu mi stai dicendo una cosa che io non conosco e di cui non mi assumo la responsabilità. Sono passati degli anni, dico. Non lo so se era, non so quanti anni fa. Ah, tu stai dicendo che lui ha partecipato perché tu le hai organizzate a delle convention di aziende farmaceutiche e ha preso anche un sacco di soldi da queste aziende, no, giusto? Un sacco non lo so. ha preso dei soldi. Non so. Benissimo. Quindi, come dire, come sempre, poi magari se hai visto il suo punto di vista, però fare le presentazioni, introdurre i cantanti, parlare, fare le interviste agli amministratori delegati, questa è una cosa che comunque, come dire, era visibile, non è ripeto, non so, è, forse nel passato l'ha fatto, non ho la minima idea. Vabbè, che ti devo dire? Nicola dalla provincia di Venezia, dai. Pronto, mi senti? Dimmi. Pronto. Niente, hai messo giù il 448. Guarda che l'ascoltatore che ha chiamato prima non ha un'idea, non ha avuto una brutta idea, sai, Cruciani. Io l'ascolto ogni giorno sui Marumba dei musulmani. Porca vacca, se. Ma non ho capito, seppellire i musulmani con la pelle di maiale, perché? Bravissimo, cacchio, c'è una bella idea, perché loro il maiale lo odiano, adesso non so, non mi intendo bene. E dunque, cosa sarebbe? Una punizione postuma? Cosa sarebbe? Bravissimo, una punizione postuma. Ti ricordi che a volta, come si chiamava, no, Castelli, l'altro parlamentare, Calderoli. Guarda, a me delle vendette delle vendette non me ne frega nulla. Cioè. Non te ne frega nulla, però intanto loro se ne fregano e noi ci fanno esplodere compagnia bella. Però ho capito, ma se quando metti i resti di un kamikaze dentro la pelle di maiale, il risultato che ottieni qual è? Non ho capito, qual è? È una forma di prevenzione, no? Ma quale prevenzione di che? Non è che uno non si fa esplodere, se sa che viene ricoperto. No, non lo so, guarda, perché come hanno la fissazione di andare in paradiso, eccetera, eccetera, delle vergini, quella. Ma guarda, non so, forse l'ascoltatore ha lanciato una bella idea, una bella. Scusami, guarda, ho avuto presto intervento, magari per sensibilizzare anche gli altri sul discorso di sti cazzo di kamikaze che si fanno esplodere. Non sarebbe una brutta idea, guarda. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Roberto, provincia di Savona, vai. Eccoci qui, che bello. Sono felicissimo di stare lì. Vai, Roby, vai, Roby. Lo so, dai. Allora, senti, faccio il bagnino da 26 anni. Grande, dove? Quindi un po' d'esperienza, e beh, dove? Me lo dico così. Poi a Noli, dai, va. A Noli, ma conosco bene Noli, cioè sono andato una volta in realtà a Noli. Ma dai, giura. Grande, bene, Noli, grande. Bene, dimmi. Allora, vabbè, dai, a 26 anni, quindi volevo dire, la diversità, no, delle donne. Adesso parenza come minimo... No, non c'è parenza, è andato via. Ah, sei andato, perfetto. È andato perché deve fare sto cazzo di trasmissione. C'è sempre da fare queste cose. Comunque, senti, ti dicevo, 26 anni di esperienza, qualcosina ho visto, qualcosina ho assaggiato, qualcosina ho provato. E ma a che livello? Femmine? Femmine, sì, fino ad arrivare anche... La solida tradizione dei bagnini italiani? Sì, ma guarda che è finita ormai quella tradizione. Io ti parlo dei primi anni 90, era tutt'altra cosa. Adesso la musica è un po' cambiata. Beh, certo, quindi... ormai non... Comunque, vabbè, cerchiamo sempre di tenerci un po' aggiornati, sai, sul pezzo, come si dice. Comunque, ti volevo dire, proprio la differenza delle... Io ho voluto dividere le donne in due mondi. Quelle che nascono e diventeranno mamme, mogli, sì. E quelle che invece nascono per darla via. Cioè, perché senza cosa? Nessuno... no, senza ma nessun impegno. Scusami, per la via, però io dico a livello proprio free, senza pagamento. Poi il prostituto è un altro mondo. No, però Roberto, questa cosa qui secondo me non è più valida, non è così. Cioè, i due campi spesso si mescolano tra di loro. Si mescolano, per carità, beh, certo, non è che si può fare. Però credimi, veramente, vedendo quello che ho visto io in questi anni. È proprio palese, ci sono quelle che nascono proprio perché la devono dare via, è proprio dentro di loro questa forza, questa cosa, che, questo tumulto che hanno dentro, che devono per forza darla via, mentre le mamme, ahimè, le mamme, le mogli, sì, la danno via all'inizio, dopodiché incomincia a scemare. Io parlo col proprio marito, perché poi qua ti dico, facendo il bagnino, un po' di esperienza di qualche però mammina, Roberto, qualche moglie, secondo, sai, me, no? Secondo me i due campi si ormai si confondono, dai, su, cioè non si confondono, però credimi, resta questa separazione netta, resta questa separazione con l'occhio attento, tu mi insegni che sei ormai uno specialista in tante cose, con l'occhio attento vedrai che queste cose qui le noti e si vedono. Io tra l'altro, ma perché mi volevi dire questa cosa, scusami Roberto, perché mi volevi dire questa cosa? Ma ti volevo dire questa cosa, non so, perché un po' sei un po' un confidente. Mi piace perché la trasmissione è un purpurri, li chiama di tutto e di più, mi fa impazzire. Allora, dopo anni che ti ascolto, credimi, io con le cuffie metto a posto la spiaggia, tutti mi guardano sempre, mi dicono: ma cosa senti? La radio? Dico: no, io sento la Zanzara. Quindi già ti faccio una pubblicità mega galattica. Ma a parte quello, mi scampo troppo, io muoio sul trespolo, mi sento la Zanzara, e per me è la fine del mondo. Troppo bello, troppo bello. Quindi io sono già contento di aver chiamato. Ma non ho capito, questa divisione, questa divisione che ancora esiste secondo te, cioè la donna nata, credimi, esiste, io la vedo quotidianamente. Ora guarda, ti sto chiamando da Riva al Mare, ma qualche mamma sposata te la fai ogni tanto o no? Ti dico, io preferisco le mamme perché mi piacciono le milf, a prescindere, perché sono mio, di un livello, di una categoria veramente over the top. Dai. Però ci sono anche delle mamme che illudono, perché mi è capitato, e questa è una cosa di un po' di tempo fa, di una mamma che secondo lei era la più grande amatrice del mondo. No, io mi sono fatto un'idea di incontrare a letto, che ne so, una Pamela Anderson, una figlia del set, una chiavica totale. Mi sono detto sarò io, perché in realtà posso essere anch'io, non è che io sono superdotato meno, ho detto sarò io. Sei normale, abbiamo, diciamo, no? Sei normale. Io 17 centimetri, non è che sono chissà che cosa. Beh, però, dai, 17 è una roba, no, vabbè, però roba buona, dai. Ho scoperto ultimamente, invece nell'ultimo anno, poi lascio la parola agli altri. Che non sono ti preoccupare, tanti. vai. La cosa invece che ho scoperto dell'ultimo anno, che gli scambi di coppie. Sì, ho conosciuto un ragazzo. L'ultimo anno, sei arrivato in ritardo. Io sono arrivato in ritardo, hai ragione. In un mondo... Quanto c'hai? Cinquantina? Ce l'hai una cinquantina o no? Io ho 46 anni, porca. 46, a 46 sei arrivato in ritardo. Vabbè, sì, un mondo... ritardo, ragione. Però ragazzi, un mondo che io l'ho conosciuto appunto a ottobre di l'anno scorso. Ma credimi, meraviglioso, cioè non c'è nulla di squallido, credimi, io ho visto delle sensazioni, ho visto delle scusa, cose. Scusa, ma tu come l'hai fatto sto scambio, con la tua compagna? No, assolutamente no, io da solo, da singolo. Sì. Ah, da singolo con le coppie? Sì, bellissimo, vabbè, credimi. Con i siti? Con i siti oppure? Con un sito in particolar modo, che mi ha fatto conoscere un mio amico cliente, perché poi si creano queste amicizie in Riva al Mare che durano anche anni. Sei arrivato in ritardo, però te lo dico, cazzo, se no, ma no, io non parlo di me in generale, sei arrivato in ritardo, no, senso, un mondo ormai super battuto, super però, conosciuto anche. Grazie a Dio io ho sempre preso senza andare sui siti, però questo è un di più e mi ha fatto conoscere delle cose che non conoscevo, delle ma veramente bello, cavolo, delle feste. Ma non ho capito le madri incontri. Perché tu però preferisci la madre che conosci in spiaggia col marito assente, che ti fa capire che potrebbe, guarda, ti fa capire, guarda, che ci può adesso ti dico una cosa, così mi mandi a cagare direttamente. Vai, allora, io tanti anni che ho fatto, mi sono scritto un piccolo libretto, così mi sputtano proprio completamente. Libretto. Ma va bene così, tanto quanti ci una specie di diario, radio, una specie di diario. Sì, una specie di diario, bravo, che ho scritto 10 storie, proprio le più strane che ho incontrato in spiaggia. Beh, 10 storie di ragazze che mi hanno lasciato qualcosa, e non parlo né di creste di gallo o di scolo, di altre cose, parlo proprio di emozioni che mi hanno lasciato, no? di particolarità. Vabbè, mandamelo via mail, no? Così almeno magari è interessante, mandamelo. Se riesco te lo mando, se so l'email tanto la trovo su internet. Ma comunque vai, cruciani giuseppe@gmail.com, dai. E comunque niente, adesso a parte tutto, io ti voglio ringraziare perché comunque mi allieti sempre. Ciao amico mio, ciao Roberto, grazie, Noli. Pubblicità. La Zanzara. Heat out in the street, telling us to move along. Gonna giornata, sole, mare, spiaggia di palme. E il mio unico pensiero è il podcast della Zanzara e pisciare in mare. Siamo al top. Enrico Ascoli, vai Enrico. Ehi Peppe, finalmente ce l'ho fatta, mi sono buttato il coglione a sentire tutto qua. Ho io e 40 anni e ho 62 anni, mi faccio le pippe sotto la doccia e una pisciata pure dopo. E allora, scusa, perché dovrebbe interessarmi il fatto che tu ti fai le seghe sotto la doccia da 40 anni? Spiegami. E perché? Si parla sempre della pipì che sembra uno scandalo. La pipì è una cosa, la pipì sotto la doccia ne abbiamo parlato a lungo perché è un'abitudine di un sacco di italiani, mentre Parenzo rifiuta questa cosa perché dice che non si deve fare, eccetera, eccetera. Ma cosa c'entra la masturbazione sotto la doccia? Spiegami. È perché è un godimento meglio della pipì. Ma ho capito, amico mio, però... quella bella colata d'acqua calda che ti serve per fare la pipì, poi una bella colata d'acqua calda dopo ancora più bollente. Ah, è un godimento, Peppe. No, ma ho capito, Enrico, ma posso anche comprendere il tuo godimento, però tu ci vuoi raccontare che in realtà sei abbastanza abituato a masturbarti sotto la doccia da 40 anni, giusto? Anche a pisciarci. E anche a pisciare sotto la doccia, bene. E sei accompagnato, sei fidanzato, sei sposato? Sono sposato da qualche anno. Da qualche anno, e come fai? Hai continuato durante il matrimonio questa pratica o sì, no? Sì, ho continuato, Peppe, guarda, tranquillamente. E ho trovato un mio primo piacere e me lo porto sempre dietro. Te lo porti sempre, nonostante un matrimonio, la presenza di una donna, eccetera, eccetera. Di una donna pure carina, bella. Ti porti dietro questa cosa qua. Questa cosa, si parla, come dice quella la pipì. Ma la pipì può capitare. Sì, certo. Può scendere. A me mi scende la pipì dopo la masturbazione. Oh, che cosa! Che bello, Peppe! Enrico, che bellezza! Che godimento, che bellezza! Tutto bellezza. Godimento! Mamma mia! Paolo Firenze, ciao Enrico, ciao! Paolo Firenze! Paolo, dimmi! Paolo, mi senti? Paolo, niente! Grazie, Treviso, vai! Grazie! Pronto? Dimmi, cara, dimmi! Vieni dopo il signore da Ascoli Piceno, interessante come vabbè. Cosa. E vabbè, capita nella vita, capita. No? Capita anche questo alla Zanzara, di sentire Enrico da... Grazie, niente, prima parli, poi ti dico grazie forse, ma anzi forse non te lo dico. No, dico io grazie a voi. No, grazie a noi, no, io non voglio nessun ringraziamento. Nessun grazie. No, ma io ve lo do comunque. E vabbè, dimmi grazie, che ci dici? Una bolla di libertà. Detto questo, sì, intervenivo dimmi. Per quanto riguarda sti vegani. Io non ne posso più. In che allora, senso? Questi vegani devono essere equiparati a genitori omicidi. Addirittura? Sì. Cioè i genitori che hanno costretto quel bambino a salvarsi, cioè hanno trascinato quel bambino in fin di vita al Gaslini, sono degli assassini. Cruciani, non lo so, esattamente, lo dici come se fosse la cosa più naturale del mondo. Coloro che buttano dalle finestre i figli, esattamente come loro. Come detto quelli che questo, buttano dalle finestre? Sì, i figli. Addirittura, certo. Dai, grazie, dai. Come quelli che buttano i figli dalle finestre. Ma che Luciani, c'entra? Luciani. Dimmi, ma non è che io sono amico dei genitori vegani, figurati. Cioè, sai quanto non sopporto il fondamentalismo vegano. Dopodiché ognuno nella vita fa il cazzo che vuole. Se mette in pericolo il proprio figlio, il figlio va tolto ai genitori, se questi qua non capiscono. Bisogna seguire minuto per minuto se uno si mette in testa di cibarli in modo vegano. Ascoltami no? un attimo. Dimmi, grazie. Dimmi. Ti sta parlando una donna a cui sono stati sottratti i figli per eccesso d'amore. Ma in che senso, scusa, questo per eccesso d'amore? Ridicolo. Ma non credo proprio siano stati sottratti per eccesso d'amore i bambini. Guarda, lasciamo perdere. Dai, grazie, adesso. No, entriamo, perché mi dici mi sono stati sottratti i bambini per eccesso d'amore. Che vuol dire? Qualcuno ti ha tolto i figli? Assolutamente sì. Ho capito, avrei fatto qualcosa o no? Non voglio parlare di Ma questo. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Scusate. Dimmi cosa hai fatto. Ti hanno tolto i figli, dimmi cosa hai fatto. Non ho chiamato per Ma te lo chiedo io, però. mi chiami in privato e ne parliamo. Ma no, ma non ti voglio chiamare in privato, scusami, hai chiamato dicendo mi hanno sottratto i figli, perché te l'hanno sottratto? No, ho chiamato per dire che... Ma l'hai già detto che quei genitori vegani che sottopongono i figli a un loro desiderio, che non è certamente il desiderio del figlio, ok? Di diventare vegano, siamo nati onnivori e così dovremmo essere rispettati. Il latte della madre è equiparabile al latte di qualsiasi animale. Vabbè, allora? Okay? Capra, mucca, che sia. Dunque? Benissimo. Sottopongono i loro figli a una dieta che va bene a loro, ma non va bene all'essere. Ma io non so se non va bene ai bambini. Ognuno alimenta i bambini come vuole, però si assume la responsabilità se fa delle cazzate. Punto. Si assume delle responsabilità. Che cosa bisogna fare con questi genitori? Grazia, cosa bisogna fare secondo te? Bisogna, al momento in cui impongono allora? Una dieta dunque? che non è corretta, dunque, chi lo dice? Comunque bisogna equipararli a omicidi. Omicidi, benissimo. Ciao, grazie. Ciao, assolutamente. Ciao, ciao. Paolo da Firenze, dai Paolo. Giuseppe, allora dimmi. A proposito McDonald's Firenze, volevo solo segnalarti una cosa. Mentre si parla di McDonald's, sì. A Firenze nel centro storico spuntano come funghi i kebab. Sì. E come se questo non bastasse, adesso si può fumare tranquillamente anche il narghilè fuori. Quindi, io non so se si può fumare il narghilè, però hai ragione. Certo. È pieno di gente che mette per la strada le proprie mercanzie, spesso illegali, innanzitutto a Firenze, ne ho visti moltissimi pure io. È pieno di persone, italiani o no che siano, spesso non sono italiani, che vendono qualsiasi tipo di borse illegali o di altre cianfrusaglie e nessuno sostanzialmente dice nulla. Ogni tanto fanno qualche raid, ogni tanto fanno qualche operazione di pulizia e poi si mettono a litigare per un McDonald's a Piazza del Duomo. Ma vaffanculo, dai, su. Esatto. Ciao Giuseppe. Ciao Alessandro Catania, dai. Oh, ciao Giuseppe, dimmi. Giuseppe, non capisco una cosa, ma perché quando si parla di cazzi tu vuoi sapere molte cose? Comunque, lasciamo un telefono per questo, l'ho sentito il ragazzo del bagnino là, quando ce l'avevo. Comunque, io volevo parlare, ti volevo dire l'interpretazione della parola Iaruso alla catanese. Sì. Allora, Iaruso vuol dire frocio, gay. Come dicono loro, diciamo, il Jesus è il gay. Però noi mettiamo anche una parola dopo Iaruso. Iaruso è puppo. Ma non ho capito, Iaruso vuol dire, alla fine vuol dire frocio, vuol dire gay, omosessuale. Vuol dire gay. Quello che ti ha detto quella ragazza. Alla catanese. Iaruso è puppo, perché poi c'è anche puppo. Il puppo è, diciamo, il polipo, perché siccome puppo è frocio proprio alla grande, dai. Sì, puppo è alla grande. Poi volevo dire un'altra cosa. Ma che volevi fare? La traduzione di Iaruso e basta? No, io ti ho chiamato, siccome tu non afferravi la... Vabbè, poi... A proposito di Iaruso, sai che ora i gay si stanno organizzando, io faccio il camionista, no? E giro tutta l'Italia. Sì. E allora si stanno organizzando ora che... prendono delle battone e li mettono in macchina con loro e girano nei parcheggi. Ma chi lo fa questo? I froci. Ma non ho capito, che cos'è che fanno? No. Non ho capito, ma dove questo allora, qua? Allora, prima i froci andavano soli, in macchina, guardavano, e se c'era qualcuno che lo stuzzicava, loro ci andavano. Sì, invece ora hanno escogitato un'altra diciamo, movimentazione. Praticamente mettono una battona, una donna, una bella donna, 40 con loro, anni, con loro. Sì, mi è capitato... Un'amica. Un'amica, possibilmente, sai, qualche... non lo so. Comunque, a me mi è capitato... Ma una prostituta vera o finta? Questo non te lo so dire. Io vabbè, comunque, dicendo... viaggiano in coppia insieme ad una donna. Perfetto, ora ti spiego il perché. A me venerdì sera mi è capitato, mentre che scendevo verso il sud... Ma dove? Che piazzola? No, a Firenze, all'area di servizio di Firenze Nord, direzione sud, no? Ero fermo là per fare la pausa e vedevo una macchina che girava lì dentro. Sì. Una donna e un uomo. Sì. Sai, tante volte ci sono queste qua scambistiche. Vabbè, sì, vabbè. gente di coppia che gli piace il vizietto. E allora invece poi parlando, perché poi loro mi hanno guardato, io ci sono avvicinato anche per passare un po' di tempo per vabbè, è inutile adesso che ce la viene a raccontare, eri attirato da questa situazione. Non sapevo, perché era la prima volta che mi sembrava che era una coppia. Io c'ero, eri arrapato, dai, eri arrapato. No, basta, comunque mi sono avvicinato, l'ho sentito subito. Ma perché non lo devi ammettere? Non ho capito. No, guarda, quella è qua, possibilmente vado con una prostituta, ma con gli uomini... Allora, il racconto del camionista Alessandro da Catania, le sue peripezie nelle aree di servizio, Firenze Nord, eccetera, eccetera, dopo la pubblicità. Marijuana e zanzara, marijuana e zanzara, viva la zanzara, ciao Crucia! Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Helios Patient Portal, è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. La zanzara. Beppe, pisciata in diretta in doccia. Ah, siamo veramente al top. Cruciani, ho appena pisciato nella jacuzzi. Cruciani, diffidare sempre da chi non piscia sotto la doccia. Sempre, sempre, capito piccoletto? Parenzo, ho sognato che io e Cruciani pisciavamo nel tuo lavandino. Che goduria! Intanto è arrivato Luca, Luca Telese, eccoci! Peppino! Oh, basta con sto Peppino ogni volta, devi esordire in questo modo, mi fa impazzire, guarda, mi fa impazzire questa roba. Allora, stavamo ascoltando un meraviglioso racconto di Alessandro da Catania, autista, cioè camionista in sostanza, il quale ci raccontava di una nuova tecnica da parte di presunti omosessuali, i quali nelle piazzole delle autostrade non si avvicinano più di notte per bussare e cercare prestazioni sessuali ai camionisti, bensì in coppia. Cosa vuol dire, Alessandro? Spiegaci meglio. Che fanno? Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, Cruciani, mi senti? Sì, ti sento, Alessandro. Allora, praticamente hanno escogitato questo, perché tante volte, sai, i viziosi ci sono. Allora, però, vedono la ragazza, la donna, piacevole, perché era una donna piacevole. Vabbè, allora? 45 anni. E allora loro che cosa fanno? Quando poi tu ti avvicini e ti metti a parlare, sì, e loro ti spiegano la situazione e vogliono fare un piccolo triangolo. Cioè tu dici, dai, se si presentano da soli magari non ottengono nulla. No, certo, sì, la gente non li manda perché per chi non ci piace. Però essendo che c'è la ragazza, sai, con la ragazza, e allora tollerano che fanno salire anche lui sul camion e fanno un piccolo triangolo. Cosa che tu hai fatto, ma non vuoi raccontare in realtà. No, per carità, guarda, te lo racconto. L'ha fatto perché un io tuo amico, dai. L'ho capito anche, c'è successo a un amico mio a Brescia. Ah, che... sempre l'amico, è sempre l'amico. È sempre l'amico, è sempre l'amico a Brescia. È l'amico di... E com'è andata? Allora, amico, Cruciani, guarda, io ho 54 anni, te lo giuro sulla vita dei miei figli, guarda, non mi fai giurare. Non sono mai stato con un maschio, con le prostitute. Ma guarda, sì, che non c'è niente di male andare con i maschi, eh. No, non c'è niente di male. Io li rispetto, gli omosessuali, per carità, ognuno. Però non ti piace, però non ti piace. No, non mi piacciono. Non lo so, forse perché sai. Per esempio, io voglio capire, vorrei capire dal camionista, caro Luca, cosa ne pensa del fatto che Vendola vuole avere un secondo figlio, una bambina, no? Una bambina. Sembra che voglia avere un secondo figlio. A te risulta, essendo tu un biografo ufficiale del signor Vendola? No, io l'ho letto come te sul Corriere della Sera, però voglio dire, per esperienza di padre, prima fu pazza di questo, poi penso al secondo. No. No, io sono, sai come sono, a favore dell'utero in affitto, per cui se uno si vuole costruire un figlio, per me lo può fare tranquillamente. Io sono assolutamente a favore e contro qualsiasi idea che vendola nella sua vita, secondo me, pur spacciandola in modo diverso, però va benissimo. Io sono a favore dell'utero in affitto e sono addirittura per la scelta del figlio, sai, con i cosi, sai, con i cataloghi. Col profilo genetico e eugenetico. Sì, tutto sì. Io sono assolutamente a favore. Vuole avere una bambina dopo il bambino con Ed? Va benissimo. Vada in qualche clinica dove si possono scegliere il sesso, il colore dei capelli, il colore degli occhi, tutto. Tutto si deve, si può scegliere tutto. Paghi, bene, circola soldi, economia, eccetera, eccetera. Alla fine, se uno figlio lo deve avere tramite queste cose, ma può anche, deve scegliere attraverso un catalogo. Secondo me, sì, prima deve aspettare che Ed compie un anno e mezzo, vedere quanto. Vabbè, adesso questo se lo vuole insidioso. Subito. Ma se lo vuole subito, sto bambino, sì. Che devi Senti, fare? Ma lo sai che Piero Angela, una puntata di Super Quark, avrebbe detto che urinare in doccia è la pratica più barbara diffusa nei paesi più sviluppati? No, ma quando l'ha detto? L'ho trovato su Google. È d'accordo, adesso dopo la vado a recuperare. È d'accordo con un film. E poi dice anche: senti, contrariamente a quanto si possa pensare, nei paesi meno sviluppati non si osserva questo fenomeno. Nei paesi meno sviluppati? Non lo farebbe. Beh, perché c'hanno la doccia, forse. No, perché è un'idea più sacrale, avendo poca doccia. Cioè, secondo Piero Angela, pisciare sotto la doccia è una roba terribile, è una roba... La pratica più barbara diffusa nei paesi più sviluppati. Lo sai che ho recuperato un pezzo di Fantozzi che parla di pisciare nel lavandino, però è diverso. È molto diverso e ti hanno cercato di inchiodare a questo, ma questa è una pratica barbara, ma c'è una motivazione. Invece, secondo alcuni studi scientifici, sì, sarebbe sano e salutare, perché l'acidificazione dell'acqua, naturalmente, stai parlando sempre della doccia, sotto la doccia, non la lavandina, uccide le spore dei funghi parassiti che possono infettare i tuoi piedi, quindi è una pratica autoimmunitaria praticamente. Beh, stupendo. Aspetta Fantozzi, pisciare nel lavandino. Aspetta Fantozzi. Ugo, ti posso dire una cosa? Mi hai proprio rotto i coglioni. Ma cosa dici? Sono 40 anni che ti sopporto, che ti faccio da serva, che subisco i tuoi umori, che ti vedo urinare nel lavandino. Orinava nel lavandino. Pazzesco, vero? Alessandro? Ciao Alessandro, ciao. Ma chi c'è? Donato? Ciao Donato! Ciao Donato da Varese, grande nemico di Telese, grande nemico. No, di Telese. Grande nemico, no, lo ignoro soltanto. Lo ignoro, sì, lo ignoro. Non ha costrutto. Non ha costrutto. Ha molto strutto, ma non ho costrutto. Ma com'è che lo soprannominavi tu? Strutto è buono. D'Artagnan. Io quello che dico, cioè adesso parlare con questo qui, con questo D'Artagnan presente, come se non sono solo per capitare proprio male, perché non vorrei nemmeno lambirlo con le mie offese. Addirittura? Sì, io perché a questo individuo che è a fianco, che peraltro più o meno è come se me la fotocopia di quell'altro stronzo da fare la latrina sulla 7. Beh, la latrina, la trasmissione, adesso non esageriamo. Fa latrina. Quella è la famosa latrina che parla di cose che sono relative alle latrine, che non dicono un cazzo. Sono cose latrine. Che non dicono un cazzo. Ma com'è che ti quello che dico, ma io quello che vorrei dire a questo stronzo lì, a questo qui. Ma che è successo con Telesi adesso? Ma tu ti rendi, ma come si fa a starsene zitto con questo qui al telefono? Ma ti rendi, io vorrei dire a questo stronzo, a parte il fatto che vorrei dire a questo stronzo, ma tanti ancora, stronzi come guardavo, lui, perché non hanno fronteggiato minimamente cosa? Quella legge incostituzionale del CAN applicato, il canone sulla bolletta Enel. Io vorrei chiedere a questo stronzo che almeno la voce incapita, perché potrebbe parlare con quello stronzo di Renzi, no? Non c'è grande. Quindi sono stronzo perché sono d'accordo con te sul canone. Perché non ti ho mai sentito. Allora dite domani in poi che quello è un latrocinio. Da domani devi dire per quello. Perché è un uomo, no? Tu sai che in Italia esistono. Perché tu sai che in Italia esistono molte persone che non riescono nemmeno a mettere assieme il primo col secondo. E poi arriva questo figlio di puttana, qual è Renzi. Ma vabbè, adesso non esageriamo. Renzi, dai. Un figlio di puttana. Allora, il discorso è questo, che ti viene a pregare il canone, come si chiama? Il canone sulla bolletta. Ma io dico, ma uno che prende 300 euro al mese, come cazzo fa a fronteggiare sto cavolo della bolletta? Che peraltro poi la televisione ti dà quello che dice. Ma ci sono delle esenzioni pure, no? Ci sono delle esenzioni. No, non c'è nessuna esenzione. Allora, questo qui... Ma hai fatto una scuola di teatro o parli così nella vita? Perché bello, rifammi questo gutturale forte. Come fai? Allora, il discorso è questo. Poi vorrei chiedere un pochino a questo baffetto. Ma io parlo quando parlo di questo baffetto, io parlo di mille baffetti, compreso quel miserabile di D'Alema. Io includo anche pure quell'altro baffetto, perché a me D'Alema mi deve ancora chiamare, mi dovrebbe denunciare. Ma perché? Davanti al popolo italiano, mi deve spiegare che cazzo è servito all'Italia, come lui, quell'altro porco di Bersani, tutta questa gente. Vabbè, ma che c'entra adesso questo? Stai mettendo insieme una serie di cose. Di Vendola non mi dici niente. Di Vendola, si Vendola. Ma vuole avere una bambina, si Vendola, eh? Ma Vendola è un pezzente. Vabbè, non esiste un aggettivo contro Vendola. Allora, io penso, nessun aggettivo si abbassa a offendere Vendola. Ma lasciamo stare quel pezzente, quel miserabile farabutto. Ma vabbè, che ha fatto? Scusa, Ladro, non si sa che cazzo è. Chi hai votato? Chi hai votato? Io sono di destra. Ma non perché sono... Allora, io delle ideologie ci cago sopra. Io sono di destra perché vedo che la gente di destra ama questo paese. Che non è certamente gente come te che ama questo paese. Tu a me devi... Tu sai che le donne islamiche partoriscono 4 volte più delle donne cristiane? Ti sei mai posto questa domanda? Vabbè, no, questo... stamattina mi ponevo questo problema. Ecco, tu lo sai che basta un caccolo anche approssimativo, fra 35 anni nel Parlamento italiano ci sarà la Sharia? Lo sai o non lo sai? Stai facendo qualcosa per i tuoi figli? Allora io quando parlo a te, parlo con un milione di gente come te, perché non fate altro che rimpizzarvi lo stomaco, cagare dalla mattina alla sera, scopare... E non pensate a nulla. Per voi il futuro, può, cos'è? Il futuro è un manicaretto. Per voi il futuro è un manicaretto. È un manicaretto. Ma non è quello che fra poco dovrà accadere, sì, ad avvenire. Perché noi fra poco saremo islamizzati. Ma tu che hai votato? Ti ho chiesto cosa hai votato. Ma che non hai sbroccato? Parla di te. Parla come hai fatto a conoscere la moglie di Berlinguer. Come te la sei scopata? Parla ma che c'entra adesso? Scusa. Ma che c'entra? Ma uno conosce le persone che... Ma c'entra un caio, lo sai, io può essere anche la figlia di Almirante. Parla un po' di lui, io non so nulla di quest'uomo. No, ma allora, non ho capito. Adesso ti ho chiesto cosa hai votato, mo ti vergogni di dire che cosa detto hai votato. Che io, allora, ti ho chiesto io... come fa a sopportarti tua moglie quando dici... Ma tu digli al popolo italiano se mi sopporta o non mi sopporta. Ma il popolo italiano, adesso... Ma voglio sentire la voce di tua moglie, falla parlare, la santa donna. Quella povera donna che ci si carica, più kebab che McDonald's, ma lui ideologicamente, siccome che non può attaccare chi il culo non glielo fa, chi? Non glielo fa, o meglio attacca chi il culo non glielo fa, ma non attaccherebbe mai l'Islam che ha aperto un sacco, mi sembra sono ci ma di chi parli? Del sindaco di Firenze? L'Islam ha aperto i kebab. Per dominare il mondo. A Firenze sono minimo 20 a Firenze, kebab, a Firenze. E lo prendo con McDonald's. Quel pezzo di merda. Quello stronzo di Renzi. No, è Nardella, non era, è Nardella quello. Nardella. Nardella che non vuole il McDonald's a Piazza del Duomo. Quindi è Nardella che sta colonizzando l'Occidente con i kebab. Orrore, Nardella! Vedi questo nudo cosa fa? Orrore! Lui se ne esce con queste cazzate. Tu con quel corpo morto se ne esce con quelle cazzate, ma non combatte. Allora lui mi deve ancora non spiegare se che lui vuole, facciamo se vuole lui ragazzi telefonate a Zanzara, la crociata contro il kebab, facciamo la crociata contro il kebab. Aspetta fammi sentire. È uno stampino di tanti stampini che si susseguono. Mi deve dire lui se vuole quest'Italia islamizzata o cristiana, perché se la vuole islamizzata si deve prendere sua responsabilità. Io la voglio islamizzata. Siccome che io posso anche avere rispetto per l'Islam, a parte il fatto che l'Islam mi deve spiegare come viene qui in questa terra cristiana a contrastare un altro Dio, il Dio della Bibbia, vorrei sapere con quale coraggio, tutto qua. Vabbè, il Papa come va? L'appello al Papa? Papa, tu se mi fai queste domande te le faccio perché non ho problemi. Il Papa è un prete. Ah, il Papa ha detto che bisogna avere rispetto dei gay, bisogna chiedere scusa ai gay. Ha detto che i cristiani devono chiedere. Tutta una massa morfa di culatone che stanno lì nelle... Ma tu hai visto quegli uomini con le palandrane addosso lì? Che cazzo avranno sotto quelle palandrane? Ma avranno sicuramente tutti i cazzi duri 24 ore. Ma chi ce l'hanno? Tutti i cazzi duri. Ma ti pare mai possibile che quelli siano tutti gli eunuchi? Ah, ma dici... Che cazzo devono operare? Allora, cazzo. Ma chi ti stai parlando? I preti? Di chi sta... Ma chi I preti che hanno le tute addosso sono i più grandi chiamatori della storia. I più grandi chiamatori, svolizzatori, sono i specialisti delle fellatio. Fellatio. Sono veramente degli esseri a sesso 24 ore su 24 ore. E probabilmente Bergoglio, il prete Bergoglio, che io lo rispetto. Sì. Però non credo che lui rappresenti Cristo, perché Cristo dice non che stava con le terga su un giacimento aurifero, d'accordo? Ma queste cose per farlo capire ai veri cristiani, ce ne vuole anche questo porco che è a fianco. Allora, Aridaia. Io vorrei soltanto... Ma che cosa hai votato? Io non ho capito ancora che cosa hai votato. Ma non lo dico mai, ma tu che cazzo hai votato? Ma che cazzo hai votato tu? Allora, tu per essere arrivato a parlare con me, mi devi dire tu che cazzo hai votato, che ti ha trascinato l'erano 24 che stai parlando con me. Ma scusa, io... Tu lo devi spiegare! Perché io ho questo lusso per parlare con Donato? Chi mi ha dato questo... Chi mi ha elargito questa grazia? Allora, quando aspetta, tu mi ragazzi. Poni queste domande, chi mi ha elargito questa grazia per parlare con Donato, allora mi devi dire tu che cazzo hai votato! Tu! La domanda l'ho fatta io te la posso rispondere 100 volte. Ma il tuo momento è servito a te! Hai capito? No, non sei capito. Tu mi devi... Allora, io questo signorino qua lo voglio incontrare. Mi deve spiegare perché 2 più 2 fa 3. Ma sì, ma su che cosa? Perché 2 più 2 fa 3. Ma su che cosa? Ma cosa ti sei fumato? Perché per matematica certezza l'Italia verrà islamizzata. Come lo devo dire? Verrà islamizzata. Io sono un cristiano, posso difendere questa terra? No, ma non ho capito perché ti vergogni di dire che sono qua all'aria. Non ho capito. Questa Italia, io non sto offendendo l'Islam. Allora, gli islamici, al mio posto, non andrebbero, non parlerebbero attraverso una radio. Gli islamici verrebbero con i maceti e ti farebbero saltare la testa. Quando tu andassi nel loro paese a offendere il loro governo, a offendere anche una radio, che si può essere chiaro, Radio Padania, quegli islamici maledetti che telefonano a radio, che noi per sapere quale concezione, ci metteremo a offendere la radio. Quella è una radio di un popolo che sta in questa terra! Non sono islamici! Andate in qualsiasi paese arabo e andate voi a condannare una radio per dire della Tunisia e vedete se uscite vivi! Abbiamo perso tutto! Ditelo a questo fiere! Ma che devo finire? Io sono, ho la disgrazia, ho la disgrazia di non poter dire. Ma ci andiamo a mangiare un kebab insieme? La soluzione dei miei problemi. Così sento le grandi paure del piccolo uomo. No, cosa è paura! Donato, tu sei un piccolo uomo che ha un grande dramma dentro. Io voglio aiutarti. Andiamo allora a me lo devi mostrare. Allora mi devi incontrare e davanti scegliamo 100 persone a caso. Vediamo chi ce l'ha il dramma dentro. Merda infinita. Allora trovami un campionare umano. Fermi tutti. Poi ci incontriamo io e te e vediamo chi c'è dentro il dramma umano. Ragazzi, il dramma umano ce l'hai tu. Zanzarosi, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.